siamo come più veloce che si stanno per toccare pagine di libri ancora da sfogliare, siamo come carte ancora da scoprire, due sagome nel buio, una forza naturale. Mi piace il modo che tu hai di guardare, adoro la tua bocca da baciare. Mi piace ogni tua supposizione, ogni tuo particolare, ogni tua espressione. Mi piace il tuo modo di alterarti, il tuo metterti da parte, il difenderti da sguardi maliziosi. Mi piace quando ridi, mi piace quando piangi, e sei eccezionale quando metti un paio di calze. Ti adoro come un bimbo che vuole la cioccolata, ti amo anche quando sei bruciata. Ti odio quando tu poi vuoi sparire, quando mi dici sei un bastardo che non m'ami più, ti odio ancora di più. Nel buio della sera racconto il suo divano, impossessarmi dolce del tuo bel seno, scoprire il nostro corpo, sfiorarci piano piano, so chiudere i nostri occhi tenendoci per mano. Adoro come tu ti fai desiderare, per come poi ti sai abbandonare. Adoro quando tu mi fai morire, quando tu mi fai finire, da impazzire.